24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:22 minuti, eccoci qua cari ascoltatori, riparte una settimana di 24 mattino in diretta fino alle 9. Parleremo nel nostro sondaggio di scuola oggi della proposta, la sperimentazione che è stata annunciata dal Ministero, dal Ministro Gelmini, pagare di più gli insegnanti più bravi. Che ne pensate? Secondo voi è un criterio giusto? Questo vi chiediamo oggi nel nostro sondaggio, votate su radio24.it, ne parleremo più avanti, ora la lettura dei giornali. Legal Mail, la migliore posta elettronica certificata. È un prodotto InfoCert. Vi presenta In Primo Piano. Lunedì 22 novembre alcuni giornali decidono di aprire sulla situazione dell'Irlanda, il piano per salvare l'Irlanda, questo per il Corriere, così Repubblica, Irlanda, arriva il salvataggio europeo. Per il Sole 24 Ore l'edizione del lunedì cura forte per i paesi deboli, il tema dunque lo stesso, a Dublino manovra da 6 miliardi, Lisbona riduce pensioni e sanità. E poi c'è la politica per gli altri giornali che vedremo più avanti. Io però voglio iniziare dal racconto di una storia che trovate in prima pagina del Corriere della Sera. Si riuniscono per raccontare l'Italia che non va, Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, raccontando la storia dell'autostrada dei pasticci da 900 milioni, così come viene definita. È la Roma Latina. Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, Corriere della Sera, i soldi vanno spesi per l'asfalto o per gli avvocati? Parte con questa domanda assurda, per stessa definizione degli autori, questo articolo. Se devi fare un'autostrada è ovvio che i soldi vadano spesi in lavori e non in cause giudiziarie. Eppure, prima ancora che sia stato dato un solo colpo di badile, i denari stanziati per la Roma Latina sono già ipotecati da due risarcimenti da capogiro per quasi 1 miliardo di euro. Perché la scorsa settimana il CIPE ha sbloccato 468 milioni, ma questi 468 milioni non andranno probabilmente per costruire la strada, ma raccontano Stella e Rizzo, per un mega risarcimento record già lievitato a 850 milioni di euro. È un racconto che poi prosegue per l'intera pagina 23 del Corriere della Sera, la nascita di questa joint venture pubblico e privato nel 2001 per costruire la Roma Latina, si chiamava Arcea Lazio, col 51% in mano alla Regione Lazio, il 49% a un raggruppamento privato. Poi si succede la politica, prima i dubbi di Bruxelles, poi cambia il ministero, arriva Di Pietro, poi cambia la Regione Lazio, arriva Marrazzo che si decide di azzerare tutto. Insomma, la politica ci mette del suo, risultato, i privati decidono di ricorrere a un arbitrato e alla fine l'arbitrato, il totale dei due arbitrati, perché lievitano poi a due, 859 milioni di euro, che lo Stato poi rischia di dover pagare. Più del doppio delle penali che lo Stato dovrebbe pagare cancellando il ponte di Messina, una somma pazzesca. Tanto più che l'intera autostrada dovrebbe già costare, IVA esclusa, 1.668 milioni di euro, il tutto per 55 chilometri, cioè 30 milioni e rotti al chilometro, il triplo dei costi francesi o dei costi spagnoli, quasi 8 volte di quanto costò in valuta attuale l'auto sole. E questa è l'autostrada dei pasticci da 900 milioni, risarcimento record sulla Roma Latina, raccontano Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella. Così vi voglio fare iniziare in maniera allegra la settimana, voi che magari state guidando su un'autostrada italiana. Ci fermiamo, pubblicità e meteo, e poi ripartiamo dalla politica. In Primo Piano. La politica inizia questa settimana, sapete che c'è l'avvicinamento al 14 dicembre, giornata sicuramente di svolta per questa legislatura, mozioni di fiducia e sfiducia da votare a Camera e Senato. La politica, dicevo, si interroga sull'apertura ieri fatta da Casini, leader dell'UDC. Serve un governo d'armistizio, così Casini apre un tavolo con il PDL, titola per esempio il Corriere della Sera pagina 2, Casini che ha detto: non ci piace l'egemonia della Lega e di Berlusconi, non ci fidiamo, ma se vogliono cambiare ci siederemo al tavolo, ci aspettiamo però dei fatti. E allora il segnale è questo, anche Repubblica a pagina 7 dice: la risposta di Berlusconi è cautela, Berlusconi non si fida dei centristi, non metto a rischio l'asse con Bossi, perché il problema è questo, UDC e Lega si vedono come il fumo negli occhi. La linea ufficiale dunque di Berlusconi è non chiudere le porte, però chiaramente c'è cautela. Chi però analizza in maniera ancora più approfondita la mossa di Casini, mettendola insieme alla mossa di Fini, è La Stampa con Amedeo La Mattina. Nel momento della verità Berlusconi si scopre più forte. Il dato di fatto è questo, che dopo Fini, che qualche giorno fa ha mandato questo video dicendo il premier sia responsabile, ora Casini che dice se cambiano davvero possiamo metterci a un tavolo e discutere per un governo allargato. Allora, che sta succedendo? È un momento delle retromarce? Allora, Amedeo La Mattina racconta sulla stampa, prima Fini con l'invocazione al senso di responsabilità, ora Casini pronto a trattare un armistizio, entrambi di fatto ammettono la loro debolezza. Dopo aver dichiarato guerra al cavaliere, avevano chiesto la sua testa come condizione per sostenere un nuovo governo. Per esempio Fini aveva detto siamo oltre Berlusconi, mentre Casini aveva detto si deve dimettere e passare la mano. Adesso si sono messi al pallottoliere, hanno capito di avere un bel po' di problemi dentro i loro gruppi parlamentari, ecco perché, spiegano nel PDL, pure Casini è venuto a più miti consigli e non dice più no a un Berlusconi bis. Più esplicito è Vittorio Feltri in prima pagina del Giornale. Il Giornale titola infatti a 9 colonne così: inizia la grande marcia indietro, paura delle elezioni. Vittorio Feltri dice: cosa ha detto in realtà Fini, definito il leaderone del partitino cattolico? Traduco dal politichese: Casini non si fida di Berlusconi, non sopporta l'egemonia leghista nel governo. Tuttavia, dato che si è stufato di stare all'opposizione, dato che Fini non è una soluzione, semmai è un problema, dato che le elezioni anticipate non si sa quale sorpresa possano riservare, forse vale la pena aprire un negoziato con la maggioranza e vedere se non sia il caso di puntellarla. Anche se Vittorio Feltri conclude il suo editoriale dicendo: Bossi accetterà di pesare di meno nella coalizione per far posto a Casini? Non ci credo. Se toglie ai leghisti il federalismo, restano in camicia verde e non sono scemi. Insomma, questa mossa di Fini e di Casini, dopo quella di Fini, una parziale retromarcia, questo si chiede alla politica, in attesa del 14 dicembre. Chi invece ha chiuso una porta, pare ormai definitivamente, è Luca Cordero di Montezemolo, ieri ospite da Fabio Fazio, che tempo che fa, dopo aver definito questa politica, questo governo, una sorta di cinepanettone ormai ai titoli di coda, questo film politico dell'Italia, dice: non entrerò in politica, non ho intenzione di fondare un partito, non ho intenzione di entrare in un partito che già c'è. Questa politica non mi piace, non mi piace il modo di fare politica oggi, perché anche per le elezioni avremo, se ci fossero, nuovi veleni e nuovi scontri. Insomma, Montezemolo che pare aver chiuso ogni porta dopo che per tanti giorni si vociferava: può entrare nella politica, può non entrare nella politica, cosa farà? Ieri una risposta abbastanza netta. La politica poi si interroga su che cosa? Sembra diventato ormai il rischio di un vero e proprio duello anche fisico, quello tra Mara Carfagna, il ministro che ha detto sono pronta a dimettermi, ora per la verità al Corriere della Sera, così titola il Corriere della Sera, la Carfagna frena, sono pronta a trattare. Insomma, vedete, è un momento della politica un po' di balletti, no? Di teatrino, qualcuno potrebbe essere un po' più maligno. La Carfagna pronta a trattare. E qual è il duello? Beh, con l'Alessandra Mussolini. Con Alessandra Mussolini. Ieri la Carfagna ha fatto questa intervista al Mattino definendola una vaiassa, che voi forse di Napoli sapete meglio cosa voglia dire, anche se in realtà tutti i linguisti napoletani si sono un po' interrogati. La Mussolini è una vaiassa, lite o commedia in dialetto, racconta Goffredo Buccini. La Mussolini, sapete che ha risposto? La vaiassa è serva, donna di basso ceto sociale, ma qualcuno anche sul Messaggero fa ipotizzare il Messaggero. Serva, oppure viene utilizzato anche come sinonimo di prostituta addirittura. Sta di fatto che Alessandra Mussolini l'ha presa davvero male. Ha detto: che cosa ha detto? E racconta a Goffredo Buccini, che la sente: non provarci nemmeno a raccontare che vaiassa è una parola buona per giustificare quella là, la chiama così ormai la Carfagna, quella là, lascia che mi capiti davanti in Parlamento, ci deve venire in Parlamento, no? e appena la vedo la insulto fissandola dritta in quei suoi occhioni, che dopo saranno ancora più sbarrati. Insomma, un'Alessandra Mussolini che la prende malissimo. Ci vedremo alla camera, questa è la minaccia di Alessandra Mussolini. Perché se l'era presa con la Mussolini? Perché quando Mara Carfagna è andata vicino a Italo Bocchino, Finiano, a discutere, la Mussolini due giorni fa in Parlamento aveva tirato fuori il telefonino e l'aveva immortalata con una foto che poi è finita su Dago Spia, dicendo: eccola qui, la Mara Carfagna in qualche modo è sempre lì a parlare con Italo Bocchino, Finiano, grande accusatore di Berlusconi, ecco, allora parla col nemico, no? E adesso sono passati agli insulti. Il fatto politico in realtà c'è sotto, molto più serio, è lo scontro del potere in Campania. Tra l'altro ne parleremo noi anche alle 8:20, sarà ospite il presidente della provincia di Salerno, Edmondo Cirielli, che ha identificato da Mara Carfagna come uno, non so, politicamente dei nemici, mi si passi il termine. E Franco Frattini, presidente, il ministro degli esteri, fa un'intervista a Repubblica a pagina 10, intervistato da Francesco Bei, dice: grave la minaccia di Cosentino, che è il coordinatore del PDL in Campania, non può restare a lungo coordinatore, parla a lungo del caso Carfagna. Franco Frattini dice: per il momento Cosentino può restare, la Carfagna ha detto: io sono incompatibile con Cosentino. Però dico a Mara di stringere i denti, voti la fiducia, poi ci occupiamo del rinnovamento del partito in Campania. In una chiacchierata con Massimo Giannini a Repubblica, Mara Carfagna, qualche virgolettato, dice: la misura era colma, io non cederò, torno indietro solo se Silvio mi ascolta. Dunque sul Corriere data pronta a trattare, mentre su Repubblica ancora pronta ad andare avanti, testarda a dire: torno indietro solo se Silvio mi ascolta. Viene intervistato su Repubblica anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che con il presidente della provincia di Salerno, Cirielli, ha uno scontro sulla questione del termovalorizzatore dei rifiuti. Insomma, un gran ginepraio, stavo dicendo un gran casino, ma mi sono fermato in tempo. E su Giuliano Ferrara, anche sul Foglio, parla proprio nel suo editoriale del lunedì della Carfagna. Cosa deve fare la Carfagna per farci felici e contenti? Intanto Giuliano Ferrara racconta un episodio riferito al gossip che ha sempre accompagnato l'ascesa politica del ministro. Una volta, racconta Ferrara, quando una troupe della BBC venne a consultarmi in campagna sulle formazioni del governo Berlusconi, al primo accenno pettegolo a Mara Carfagna li pregai, finito il caffè, di congedarsi senza l'intervista, perché l'abominio psicologico e morale di cui la Carfagna fu vittima a mezzo di gogna pubblica impartita dalla crema del guittismo e del giornalismo della sinistra perbenista, per me grida ancora e sempre vendetta. E spende parole positive Ferrara per la Carfagna. L'ho vista in TV un paio di volte appena. Mi è sembrata una persona forte, dignitosa, la Carfagna. E poi però l'invito: la Carfagna deve resistere, mettere tempo, silenzio e lavoro, attivismo ministeriale, buona politica territoriale tra sé e le beghe interne sui termovalorizzatori della provincia di Salerno. Insomma, comportarsi secondo quell'arte della politica che ha imparato in fretta e bene. Ci faccia felici e contenti, noi suoi ammiratori, resista e in certi casi si volti dall'altra parte. Dunque Ferrara che si proclama ammiratore politicamente di Mara Carfagna. La politica, oggi è il giorno in cui il ministro dell'interno Maroni alla fine andrà: vieni via con me. Che cosa leggerà? Leggerà un elenco, che cosa ci sarà in questo elenco? Ma chi lo sa, forse l'elenco dei latitanti arrestati durante il suo, dal 2008 a oggi, durante il suo governo, da quando lui è al Viminale. Maroni's list, questo è il titolo dell'unità provocatorio in prima pagina. C'è Maroni che dice: ecco la lista che invece dovrebbe leggere, le anomalie del comune di Fondi, Latina che non viene sciolto, lo scudo fiscale perché la Lega l'ha votato, in Senato perché i voti di Dell'Utri e Cuffaro, il taglio dei fondi delle forze dell'ordine. Su Ruby nessuna critica alla questura, peraltro ieri Maroni però ha detto: io non avrei telefonato alla questura ieri dall'Annunziata. Chi ha ordinato le cariche a Brescia e Terzigno? Ecco, questa secondo l'unità dovrebbe essere la lista. Claudia Fusani a pagina 4 e 5, questa è la lista che vorremmo sentire da Maroni. Comunque staremo a vedere che lista farà. Io lascio la politica e, come detto, l'apertura sia di Corriere Repubblica ma anche del Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì non è chiusa la domenica, ma è dedicata alla vicenda Irlanda. Sì europeo agli aiuti per l'Irlanda. L'Irlanda alla fine ha detto sì, ha ceduto. Ci vorrà un piano di salvataggio europeo da 90 miliardi di euro in 3 anni. Questo ha chiesto il governo Cowen, ha chiesto il soccorso all'Unione Europea dopo che Dublino per alcuni giorni ha tergiversato. Ma ora l'Irlanda ha ceduto, come racconta Luigi Offeddu sul Corriere della Sera, ma anche Andrea Bonanni a pagina 3 di Repubblica. Eurolandia prova a salvare se stessa ma resta nel mirino della speculazione. Il piano di salvataggio è da 90 miliardi e l'Unione Europea ha risposto: assicurerà il salvataggio dell'ex tigre celtica, racconta il Corriere, oggi in crisi perché questo è giustificato dalla necessità di salvaguardare la stabilità finanziaria nell'Unione Europea e nella zona euro. Come al solito ci sono le discussioni, ora è giusto salvare, è giusto, è ingiusto salvare, questo tenendo conto che è una zona di stabilità dell'euro più globale da mantenere, da salvaguardare, e dunque per questo l'Unione Europea dice bisogna intervenire. Il Sole 24 Ore fa un interessante, intanto l'analisi degli analisti del mercato, mano pesante coi paesi a rischio, a pagina 3 del Sole, i mercati penalizzano soprattutto la Grecia, che resta l'anello più debole dell'Unione Europea. Ma poi a pagina 2 troviamo che cosa? La situazione non solo nell'Irlanda, dove Nicole degli Innocenti racconta il turbinio delle cifre che si rincorrono sulla crisi irlandese, il fatto che già il ministro alle finanze Brian Lenihan ha detto che con una mossa inusuale la prossima finanziaria comporterà tagli da 6 miliardi di euro, e perché certo adesso Dublino dovrà in qualche modo entrare in una politica di austerity. Ma racconta al Sole 24 Ore anche la situazione in Portogallo, dove c'è la sanità nel mirino perché la finanziaria prevede 2,2 miliardi di euro di tagli. In Spagna, dove Zapatero ha annunciato nuove misure, lo taglio degli stipendi pubblici per esempio, con la manovra taglia la spesa pubblica dell'8%, in media i ministeri del 16%, e la Grecia, in Grecia deludono le entrate fiscali, il governo ha abbassato le stime per la seconda volta, e anche da lì Vittorio D'Arold racconta qual è la situazione difficile. Insomma, ci sono paesi europei in difficoltà. Il traffico. In primo piano. Cantona, capopopolo sfida le banche, via i soldi dai conti. Oh, Eric Cantona, che per me era un idolo calcistico, sapete, per chi è appassionato di calcio, ma non solo, uno che nella vita ne ha combinate tante, no? Ha detto: il giorno migliore quando ho dato quel calcio all'Hooligan, una volta diede un calcio a un tifoso con una mossa di Kung Fu mentre giocava, quando giocava nel Manchester. Eric Cantona si è scoperto, e questa è una storia che trovate su tutti i giornali, il Corriere addirittura vi dedica una pagina, capopopolo contro le banche. Come si distruggono le banche, visto che il sistema è costruito sulle banche? Riprendiamoci il nostro denaro. Se 10 milioni di persone ritirassero i soldi dal conto, le cose cambierebbero. Eric Cantona ha lanciato questa idea, che non è un'idea nuova per la verità, si chiama Bank Run, cioè un'azione collettiva, persone che si mettono d'accordo e ritirano contemporaneamente dalla banca, dalle banche i loro risparmi. Ebbene, ma questa, che è iniziata come una boutade quasi di Eric Cantona, sta diventando invece un'azione simultanea che in tutta la Francia e nel resto d'Europa è programmata per il prossimo 7 dicembre, si intitola Stop Bank. Ed è questa iniziativa, cioè via i soldi, una campagna vera e propria anticapitalista lanciata o sponsorizzata anche dall'ex calciatore, poi anche attore, Eric Cantona. Vabbè, trovate molte pagine ancora, e questo è un tema sul quale domani probabilmente ci eserciteremo, sulla vicenda del Papa. Papa ieri, domani esce questo libro. Un libro che sta facendo scalpore, un libro intervista. Intanto fa scalpore perché per la prima volta il Papa ha risposto a delle domande in questa intervista non concordate, cioè ha accettato di rispondere a questo giornalista tedesco, un giornalista tra l'altro che ha un passato da marxista, racconta Repubblica, poi ha riscoperto le proprie radici cristiane, si chiama Peter Sewald. il quale gli ha fatto delle domande su tutto e ne sono uscite delle risposte, alcune le sapete, la parziale apertura in alcuni casi al preservativo da parte del Papa. E poi un'altra anticipazione del libro che esce domani, questo: se non fossi in grado di svolgere l'incarico mi dimetterei, cioè le ipotesi di una possibile anche dimissione del Papa dalla sua posizione. E così oggi titolano un po' i giornali: Repubblica, in caso di malattia lascerò la guida della Chiesa, questo Ratzinger. C'è anche un'intervista a Marco Pannella, insomma non il massimo esponente per leggere le dichiarazioni del Vaticano, ma la stampa va a intervistarlo proprio per dire il gran laico che ne pensa, e Pannella dice: prevedevo che avrebbe fatto questa svolta sul preservativo, parla Pannella. Sta di fatto, insomma, che ha aperto un grande dibattito sia la parziale apertura al preservativo sia questa sulle possibili dimissioni il Papa. Chi invece parla esplicitamente di dimissioni, sempre per rimanere in ambito religioso, è il Dalai Lama. Il Dalai Lama: vado in pensione, a pagina 15 della stampa, un'intera pagina di Claudio Gallo. Tra 6 mesi potrei dimettermi e una donna potrebbe succedermi, perché no? Per la verità anche il Dalai Lama non è la prima volta che ipotizza le dimissioni. Oggi è il giorno di sciopero dello spettacolo. Vi interessa? Cinema, teatro, musica, si chiude per sciopero. Così due pagine sulla stampa, 10 e 11, protesta contro Italia la cultura. Il giornale è molto esplicito: lo spettacolo sciopera ma nessuno se ne accorge. A pagina 17, oggi i lavoratori del settore si fermano ma, racconta Alessandro Gnocchi, in realtà moltissimi cinema resteranno aperti, altri il lunedì restano chiusi perché è il giorno di chiusura. Sta di fatto che, al di là della solita polemica, io vi segnalo una bella storia che racconta il Sole 24 Ore in prima pagina, del Teatro di Genova. Francesca Barbieri racconta come il Carlo Felice di Genova oggi aprirà sulle note di Beethoven un concerto con il direttore d'orchestra d'eccezione, il grande Zubin Mehta, che salirà gratis sul podio perché il Carlo Felice ha rischiato davvero di chiudere. E che cosa? Come si è risolta la questione? Beh, si è risolta con i contratti di solidarietà. Il motto "lavorare meno per lavorare tutti" è arrivato anche qui. Da inizio novembre, dunque, gli artisti del Carlo Felice adotteranno i contratti di solidarietà. Insieme a tutti gli altri dipendenti della fondazione, sono 286, vedranno ridursi del 40% il proprio orario di lavoro, di un quinto lo stipendio, ma ci sarà la certezza per 2 anni che nessuno sarà licenziato. Ovviamente qualche mugugno, qualche delusione, però è un accordo che è stato trovato. Le note dolenti del Carlo Felice, la chiusura evitata grazie ai contratti di solidarietà, gli artisti sono divisi, ma Francesca Barbieri racconta a pagina 9 la storia del Carlo Felice, questo salvataggio. Voglio andare alla chiusura, beh sì, con lo sport, perché siamo a lunedì, il calcio e l'Inter, che in questo momento sta vivendo un momento peggiore. La Gazzetta titola: Malitez, altro che Benitez, Malitez, campioni in crisi, il Chievo stende nerazzurri. Ormai anche qui è un po' come i tempi della politica, pare ormai segnato il destino di Benitez. Sì, mercoledì c'è la partita di Champions League, ma da lì si deciderà. Ma la Gazzetta già a pagina 5 parla dei possibili sostituti: Capello, oppure Leonardo, oppure Spalletti, che ha appena vinto il campionato in Russia. Sta di fatto che Benitez, c'è anche questa battuta intercettata da Mourinho in Gran Bretagna. Mourinho, finita la partita ieri, si è informato sull'Inter, ha perso ancora? Incredibile. Questo Mourinho su Benitez, anzi su Malitez. Votate il sondaggio sulla scuola, ora il GR. 24 mattino. L'intervista. Alle 8:20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Voglio salutare il presidente della provincia di Salerno, Edmondo Cirielli. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei. E anche onorevole del Popolo della Libertà. Dovrei dire, presidente, anche una delle cause per cui Mara Carfagna, il ministro, ha detto mi dimetto, o no? Insomma, diciamo che non credo di avere proprio questa responsabilità, questo merito, secondo di chi la interpreta in un senso o nell'altro. Credo che il ministro Carfagna da tempo stava meditando un gesto clamoroso, e dispiace che questo gesto capiti in un momento molto difficile per il Premier. Credo che per una questione di gratitudine, al di là delle sue ragioni, se mai ne avesse, non doveva tirare fuori questa vicenda in un momento così delicato. Insomma, lei non ha mai fatto politica, è diventato deputato, nominata ministro, ha litigato con tutti a Salerno, a Napoli, a Roma, insomma, e adesso fa un piccolo ricatto, prima chiede al Premier o me o loro, e credo che in un momento così difficile, insomma, forse un po' di gratitudine in più sarebbe stata una cosa saggia. Insomma, mi sembra di interpretare che lei non sarebbe molto dispiaciuto da questa... Guarda, io sono molto più dispiaciuto degli effetti di questa polemica. Peraltro le dimissioni sono dimissioni annunciate, perché come sa c'è un voto alla Camera sulle dimissioni di un parlamentare, e quindi significa per altri 15 giorni fino al 15 dicembre. Poi si andrà a votare, magari Futuro e Libertà voterà a favore, quindi le dimissioni saranno respinte. Altro schiaffo in faccia al Premier. Insomma, io credo che c'è una strategia di riciclarsi da un lato, e un'altra quella di dare un colpo successivo al Premier, ed è evidente che questa strategia è studiata altrove. Senta, Mara Carfagna ha parlato di guerra tra bande all'interno del Popolo della Libertà in campagna, cioè i cosentiniani. Lei si definirebbe un cosentiniano? Io sono una persona che stima Cosentino. Lui era il coordinatore di Forza Italia, il presidente provinciale di AN, è sempre stato molto corretto, lo sostengo perché in questi anni ha fatto vincere il PDL, ma io sono un uomo delle istituzioni, non sono un uomo di nessuno, tutelo gli interessi del mio territorio, sto in questo partito perché credo che sia quello che possa fare qualcosa di buono per l'Italia, ma non mi definisco uomo di nessuno. Ma nonostante le accuse, cioè lei dice lo stimo Cosentino, nonostante le accuse pesanti. Nonostante le accuse, perché vede, le accuse lui non è condannato ancora. È stato richiesto l'arresto, però. È stato richiesto l'arresto, ma per esempio di De Luca, del sindaco di Salerno, che tutti osannano, è stato richiesto ben 3 volte l'arresto. Il Parlamento non ha fatto utilizzare le intercettazioni telefoniche che riguardavano queste vicende, insomma, ed è un santo chiamato Cosentino. Io, se lui dovesse risultare, se fossi convinto della sua colpevolezza, non è che non sarei una persona, io non lo saluterei neanche più, data la gravità delle accuse, però onestamente per il comportamento avuto negli anni nei miei confronti, per una questione logica, non credo che lui sia un camorrista, perché i camorristi, io sono ufficiale dei carabinieri nella vita, li conosco, sono gente prepotente, arrogante, cerca di calpestarti. Onestamente in questi anni io non l'ho mai notato, riconosco che di non aver letto le carte del processo, forse, però anche ha la stima, diciamo, nei confronti della persona. Comunque è una persona che stimo. Senta, lei ha citato De Luca, oggi il sindaco di Salerno, allora uno dei nodi è questo del termovalorizzatore di Salerno. Lo deve costruire il comune, come sostiene il sindaco De Luca, o la provincia, come sostiene lei, con un bando fatto apposito? Allora, la legge finora in vigore, perché non sappiamo ancora questo decreto, prevedeva che lo facesse la provincia. Ricordo che il sindaco, quale commissario di governo, per 2 anni e mezzo ha avuto poteri straordinari e ha speso ben 15 milioni di euro per realizzare il termovalorizzatore. Ha fatto 2 gare, una è andata deserta, L'altra si è presentata una ditta, lui ha dichiarato infruttuosa questa gara. Per colpa sua c'è l'emergenza campagna rifiuti, perché se noi oggi avessimo il secondo termovalorizzatore aperto da un anno, quanto lui avrebbe potuto farlo, oggi noi non saremmo in ginocchio. Però a Salerno c'è una differenziata molto alta, per esempio. Dal 2008, ai tempi della vicenda Iervolino e della discarica di Pianura, quando c'è stata l'emergenza campagna, a Salerno si faceva peggio che a Salerno città. Ma sa che ha detto oggi De Luca in un'intervista a Repubblica? Dimostreremo nei prossimi giorni la presenza affaristica nel bando della provincia del termovalorizzatore di Salerno. Ma se lui sa qualcosa del genere, fa bene a denunciarla. Voglio solo dire che noi il bando è stato fatto con i dirigenti della provincia, che non hanno preso un euro in più rispetto a quello che prendono facendo il lavoro, nonostante che abbiano lavorato sabato e domenica. Quando lui ha fatto il bando, che è andato deserto, e vedremo il mio bando se andrà deserto, e lui ha pagato quei soldi del governo all'ufficio tecnico comunale. E voglio dire che i casalesi sono stati segnalati come infiltrazione negli appalti e nella vicenda dell'urbanistica del Sea Park, una cosa fatta dal comune. Per quanto mi riguarda, io e casalesi ho revocato una gara d'appalto che avevano vinto per una scuola che avevano avuto durante il centro-sinistra, quindi onestamente non accetto lezioni di morale. Senta, ho 15 anni, mi scusi, non ho avuto mai un avviso di garanzia. Il sindaco di Salerno ha avuto ben 3 richieste d'arresto, decine di procedimenti penali, e si è avvalso della prescrizione una volta, e un'altra volta si è avvalso della distruzione dell'intercettazione. La situazione decine di richieste penali, non lo so, non c'è qua il sindaco. Io lo dico io, no. Mi può anche una cosa che si può verificare, a Salerno sanno tutti. Senta, le chiedo in conclusione, il ministro Frattini oggi ha detto, abbiamo percepito che se non si appoggiava la linea Cosentino, i parlamentari vicini a Cosentino non avrebbero votato la finanziaria, lei un parlamentare diciamo vicino a Cosentino, corrisponde al vero? Perché per Frattini sarebbe stato un fatto gravissimo, una sorta di minaccia, un ricatto. Insomma, mi dispiace che il ministro Frattini dica queste cose, è strano che quando il ministro Carfagna dice di dimettersi è un eroe, quando invece alcuni deputati delusi del comportamento ambiguo del governo che di fatto creava una confusione minacciano. Io non ero presente in aula quando è accaduto questa vicenda, so che c'è stato molto dispiacere da parte dei deputati campani, perché su questa vicenda era un anno che il sindaco di Salerno attaccava l'amministrazione della provinciale e voglio dire che il ministro Carfagna è da un anno che diceva che il termovalorizzatore doveva farlo il Comune di Salerno. È strano che lei non sostenga me, che sono un ufficiale dei carabinieri e che non ho avuto un'inchiesta a carico, e sostenga invece il sindaco di Salerno che invece ha avuto decine di incariche. Chissà come mai, se forse non dipende dal fatto che il capo della segreteria del ministro Carfagna è un costruttore molto impegnato a Salerno città. Accidenti, questa tempo cortese, si può verificare. Mi lascia con questa insomma, neanche un'accusa. Accusati giustamente senza neanche. Ma lei proprio non è simpatica. Se non delinquente uno si può anche dispiacere. No, certo, non è proprio simpatica la Carfagna. Cioè lei, per lei dovrebbe farla. No, guardi, non è, per me è indifferente. Io sono veramente basito del comportamento scorretto che lei sta tenendo nei confronti del Premier, che le ha dato tutto in politica. Io sono stato eletto 2 volte consigliere regionale, 3 volte parlamentare europeo, mi sono guadagnato tutto quello che ho. Lei invece si trova lì grazie a Berlusconi e per correttezza e gratitudine dovrebbe tacere. La ringrazio, la saluto, buona giornata ovviamente. Grazie. Presidente della provincia di Salerno Edmondo Cirielli, nonché onorevole deputato del Popolo della Libertà. E avete sentito, insomma, sicuramente il caso Carfagna anima la politica. Ci fermiamo, parliamo di scuola invece nel nostro sondaggio. La proposta del ministro Gelmini è questa: paghiamo di più gli insegnanti più bravi. Un principio che vi chiediamo, condividete oppure no? Radio24.it per votare il sondaggio oppure 800 24 00 24, siamo qui. 24 mattino. Alle 8:34 minuti. Allora, il tema del nostro sondaggio è questo. Il principio del ministro Gelmini è molto chiaro: paghiamo di più e parta una sperimentazione per valutare chi sono, paghiamo di più i professori più bravi. Che ne pensate? Il principio, secondo voi, è giusto? Un professore più bravo deve guadagnare di più? Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E vi state anche dividendo, il 54% del nostro sondaggio per ora su Radio24.it dice no, non è un principio, non è un criterio giusto. Ma comunque ne vogliamo parlare, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Intanto con Mario Rusconi, che saluto. Preside Rusconi, buongiorno. Buongiorno. Vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, tra l'altro. Il segretario invece della CGL Scuola, Mimmo Pantaleo. Buongiorno, Pantaleo. Buongiorno, ben ritrovato. Senta, intanto Rusconi, io voglio capire, perché è una sperimentazione questa, che per quel che riguarda i professori parte per le scuole di Torino, della provincia di Torino e la provincia di Napoli. I professori su base volontaria possono scegliere di essere valutati e la valutazione dovrebbe avvenire così. C'è un nucleo all'interno delle scuole composto da il preside, 2 professori eletti dal collegio dei docenti e il presidente del consiglio d'istituto in qualità di osservatore, che dovranno decidere: questo è un professore più bravo e quindi merita una 14ª, una mensilità in più per 3 anni. Preside Rusconi, intanto il principio e l'applicabilità del principio, che ne pensa? Ma guardi, sono anni che noi presidi chiediamo una valutazione delle scuole, dei presidi e degli insegnanti, quindi ben venga una sperimentazione di questo tipo. L'unico esempio, diciamo, nel dopoguerra possiamo ricordare che c'è stato di valutazione è stato quello fatto all'epoca dal ministro Berlinguer nel 2000, che è naturalmente sfociato in un... Come è naufragato, dire, ricordiamo, sì, naufragato. In una cagnara generale. Io dico la battuta che, trattandosi del 17 febbraio, venerdì del 2000, anno bisestile, 17 venerdì era destinato all'insuccesso, ma al di là della battuta è che in Italia non esiste, purtroppo, devo dirlo con molto rammarico, una cultura della valutazione. Mm. Quello che è grave è che non esista nella scuola, dove gli insegnanti presidi tutti i giorni sono chiamati a valutare chi? Gli unici soggetti valutabili che sono gli studenti. Quindi ben venga una sperimentazione di questo tipo. Però lo strano, l'ex ministro Berlinguer, proprio in un'intervista al Corriere, ha detto, dice, meno male, e poi rispetto ai miei tempi, quando ci fu appunto una rivoluzione, una rivolta, 2000, da parte, certo, 10 anni fa, fu messo, lui ricorda ancora che fu messo sull'Espresso in prima pagina con le orecchie d'asino, dice, adesso finalmente credo che la cultura del merito piano a piano anche nel mondo della scuola si sia infiltrata e quindi potrà avere dei risultati positivi. Lei invece... Io sono favorevole a quello che dice Berlinguer e quello che sta facendo adesso il ministro, con un'unica, diciamo così, chiosa, che non bisogna poi dimenticare gli insegnanti, chiamiamoli così, meno bravi, che devono essere messi in condizione poi di migliorare, perché il problema non è solamente delibare gli insegnanti bravi, che a mio parere giustamente in base al loro merito devono anche essere ricompensati in maniera diciamo acconcia. Il problema è fare in modo che anche quelli che non sono a livelli, diciamo così, empirei, siano messi in condizione di migliorare. E qua bisogna chiamare in causa l'ARAN, l'agenzia che rappresenta il Ministero quando si fanno i contratti, e i sindacati, che purtroppo da più di 10 anni hanno eliminato dai contratti l'obbligo di aggiornamento per gli insegnanti, facendo, secondo me, commettendo un vulnus molto grave contro la qualità della scuola. Allora, io intanto voglio salutare anche, se al preside Rusconi, a Mimmo Pantaleo, il professor Stefano Zecchi, che insegna la Statale di Milano. Buongiorno professor Zecchi. Buongiorno. Io, prima di arrivare alle critiche che certamente ci saranno di Mimmo Pantaleo, professore, vorrei da lei, so che lei sul giornale ha firmato un editoriale abbastanza netto a dire, oh, finalmente il merito entra anche nella scuola e la valutazione degli insegnanti più bravi e quelli più bravi guadagnino di più. È un sistema che funziona così, oppure ci sono delle falle? Per esempio, chi decide chi è più bravo in base a quali criteri? Certamente l'inizio sarà difficile, perché è qualcosa che non entra proprio nella nostra mentalità. Purtroppo siamo arrivati a una situazione in cui in una scuola c'è tutto e il contrario di tutto. I genitori lo sanno. Iscrivere un ragazzino, un bambino in una scuola, una volta si diceva c'è questa scuola migliore dell'altra, adesso è una questione di sezioni, e talvolta neanche di sezioni ma di classi. Quindi io credo che l'attenzione vada data all'utente, l'utente in questi casi sono genitori e alunni, e quindi l'occhio di riguardo deve essere per loro. Allora io trovavo importante questo cambio di valutazione, che dovrebbe toccare tutto il servizio pubblico. Noi siamo stati in qualche modo costretti a dare sempre un sostegno non tanto all'utente quanto a chi presta il servizio, e questo a mio parere è una logica perversa. Non è possibile, non lo so, che l'utente debba essere penalizzato da uno sciopero dei mezzi di trasporto, e l'utente deve essere tutelato. Ecco, la stessa cosa avviene nella scuola. Ora io capisco che ci siano, possono esserci dei problemi non indifferenti riguardo alla valutazione, anche potrebbero essercene di antipatici, ma intanto potrebbe essere valutato semplicemente un dato oggettivo, guardi, la presenza dell'insegnante nella scuola. Lei dice, per esempio, valutare da questo. Ma guardi, basta incominciare, voglio dire, da una piccola logica di valutazione sul merito, la presenza proprio dell'insegnante in scuola. Io posso supporre che chi ci ascolta ha esperienze, penso ai genitori, ha esperienze continue, che quel giorno lì l'insegnante non c'era, c'era, è andato al bidello a fare la supplenza. Ecco, ma magari cominciamo da una cosa basilare, presentarsi al posto di lavoro. Almeno quello. Allora, vediamo le critiche, certo ci sono, di Mimmo Pantaleo, CGL Scuola. Perché non le piace questa idea, che lei so che ha definito quasi una cosa di propaganda, così una butad? Noi intanto distinguiamo, c'è una valutazione del sistema scolastico e una valutazione degli insegnanti. si tratta di due cose diverse, sì, che hanno percorsi diversi, invece vedo una grande confusione su queste due questioni. Secondo, il contesto. Come possiamo parlare di valutazione in una situazione nella quale sono stati tagliati 140.000 insegnanti, sono stati bloccati i contratti, classi sovraffollate, classi che rischiano di chiudere, un mezzogiorno con un sistema formativo sempre più destrutturato, difficoltà perfino a garantire un'offerta di qualità nella primaria, penso alla domanda di tempo pieno, insegnanti demotivati da una campagna sui fannulloni che è stata aberrante. Insomma, in tutto questo contesto noi dovremmo calare la valutazione. Primo punto. Secondo punto. Ma perché sono in cioè lei ha posto delle problematiche sindacali che ha portato avanti, che però sono, guardi, che però la valutazione sono... non è a prescindere dal contesto in cui uno opera, cioè, la scuola non è un corpo a sé. La scuola è una comunità, la scuola è collocata all'interno di un contesto e quindi anche la qualità dell'apprendimento non dipende soltanto dall'insegnante. Quest'idea che tutto dipende come unico parametro dall'insegnamento, sì, è una follia che non esiste in nessuna parte del mondo, perché in altre parti d'Europa c'è un sistema di valutazione consolidato da anni, da 30 anni. Cioè, lei dice prima bisogna intreccio tra le condizioni organizzative in cui la scuola opera, sì, e la qualità. Per cui per lei se non si risolvono tutte le questioni, scusi, se lei dice se non si risolvono tutte le questioni totali della scuola non può partire la valutazione. Partendo da questo, io penso che noi dobbiamo innanzitutto insistere sul progetto, sulla valutazione del sistema, e su questo noi siamo d'accordo, c'è sempre il progetto con alcuni aggiustamenti che può funzionare, perché deve essere finalizzato al miglioramento della nostra scuola, deve servire a correggere le criticità, ad offrire un'offerta formativa migliore, sì, perché sì, noi crediamo che sia un bene comune. Sulla, invece, sulla valutazione individuale siamo di fronte francamente ad una cosa improvvisata, senza senso. Ecco, senza perché? Perché? Mi dica perché? L'idea si valuta all'interno della scuola. Ma lei, secondo lei, è credibile un sistema di valutazione in cui c'è un dirigente scolastico, così funziona, no? Un ci sono due docenti, sì, un preside, due professori e poi c'è il presidente del collegio dei docenti, sì. Poi si parla di due parametri, il curriculum è un documento, un fantomatico documento di valutazione, sì. E tutto questo viene a fare senza soldi, perché attenzione, questa sperimentazione è senza soldi, quindi da questo punto di vista le risorse che devono peraltro per contratto essere definito dalla contrattazione nazionale. Sì, ma mi faccia l'obiezione di principio, al di là dei soldi, che cosa le dà fastidio sul fatto per che... Per fare una valutazione individuale, sì, innanzitutto ci vuole una valutazione di sistema, perché la valutazione dell'apprendimento non può essere separato da una valutazione in cui il docente opera. E quindi, sì, io penso che prima bisogna costruire un sistema di valutazione, credo che il progetto sulla valutazione di sistema può essere un utile riferimento. In secondo luogo, bisogna capire all'interno di quel sistema di valutazione come effettivamente la funzione del docente nel garantire un miglioramento della qualità possa svolgersi, ma all'interno di parametri e di sistemi che siano di carattere nazionale, che siano seri. Qui ci troviamo di fronte solo ad un'operazione propagandistica senza risorse. Vabbè, l'unico obiettivo di dimostrare che i docenti sono tutto dipende, l'apprendimento dipende soltanto dalla qualità del docente. Sì, ma lei dice così, però Pantaleo, mi scusi, lei fa dei bei discorsi, io non lo so. Lei, professor Zecchi, lei ha capito se Pantaleo CGL Scuola è a favore o contro il principio in sé, detto che ci vuole una valutazione seria, detto che ci vuole tutto i soldi, detto che io sul principio non ho ancora capito qual è l'opposizione vera. Da un punto di vista dell'aumento dei finanziamenti, del rispetto maggiore dell'insegnante, questo è evidente che è doveroso. Mia mamma era una maestra, io ho sempre studiato e insegnato nella scuola pubblica. Oggi mi accorgo che purtroppo la scuola pubblica paga dei prezzi molto alti, quindi che ci debba essere un'attenzione maggiore a tutto il sistema della formazione, questo per me è vitale. Forse ne parlo perché ho passato una vita e i miei genitori erano lì, anche loro. Ecco, però detto questo, va anche ricordato che questa cosa della valutazione del merito non è un'invenzione, è stata copiata di sana pianta da quello che accade in Francia, in Germania, Non lo so in Inghilterra, perché in Inghilterra non conosco il sistema della scuola media, media superiore, ma in Germania, in Francia esistono cose. Certo. Cioè è stato proprio copiato. Ora, io, come le dicevo all'inizio, posso capire la difficoltà che ci sia di introdurre e di gestire con serietà questo sistema, ma appunto io credo che da qualche parte la valutazione dell'insegnante, proprio dell'insegnante, è necessaria, perché noi abbiamo nelle scuole dei docenti che, devo dire, sono eccellenti. Cominciare da mia moglie, a fianco hanno dei docenti che sono dei terribili lavativi. E su questo capite? Però ma è così, è no no patente. Ma su questo voglio però dire, chi entra in una scuola, un genitore che scrive suo figlio, lo vedi immediatamente. Ma su questo sì, io la devo fermare, però devo dare le informazioni sul traffico, poi riprendiamo da questo punto. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Pagare di più gli insegnanti più bravi, questo è il principio lanciato dal ministro Gelmini. Che ne pensate? È il tema del nostro sondaggio. Marco da Modena, buongiorno. Salve, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Dica. Io telefonavo dicendo che sono molto d'accordo su questo, anche se come principio credo che non sia giusto. Però mi rende effettivamente conto, avendo io una... Come? Scusi, lei è d'accordo, ma il principio non è giusto. Non è giusto, perché starebbe nella professionalità degli insegnanti. E lei sa, penso benissimo, che questo purtroppo in Italia non accade. Allora, io ho una figlia che va a scuola. Ci sono alcuni insegnanti che sono veramente competenti e motivatori. Ma c'è tutta un'altra classe di insegnanti, la più importante, che temporeggia. Allora, io dico, come principio non sono d'accordo, ma di fatto credo... Ci vuole un modo per dare una scossa, insomma. Ci voglia uno stimolo. Io gestisco un'azienda e vedo che i miei collaboratori, quelli più bravi, giustamente io li pago più volentieri. D'accordo, ma è un principio molto chiaro. Grazie, Marco. Giorgio da Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma io sono assolutamente d'accordo col principio di premiare i migliori, anche se in questo caso mi sembra ci sia un po' di confusione sul concetto di migliore. Cioè, un migliore insegnante è quello che è più presente o è quello che riesce a far avanzare di più nella formazione i ragazzi? Quindi mi sembra che nella proposta... Un giusto ministro, mix sarebbe il meglio del meglio. Sì, a questo punto il problema è la valutazione, però. La valutazione sia demandata a una commissione interna, classico metodo italiano, che porta, non si sa bene a cosa. Sì, secondo questo principio, ma adesso allora chiederò al professor Rusconi, che è preside, è un preside, due professori eletti dal collegio dei docenti e il presidente del consiglio d'istituto in qualità di osservatore, che dovranno valutare, terranno conto del curriculum vitae del professore e di un documento di valutazione. Professor Rusconi, ci dica intanto, siccome deve partire Torino-Napoli, ci sono già delle scuole, cioè i presidi si stanno già organizzando cercando di capire se è fattibile questa cosa concretamente? Ma guardi, noi che rappresentiamo più del 50% della categoria come associazione presidi chiediamo queste cose da più di 12 anni, quindi è indubbio che un sistema di valutazione del merito sia necessario nel nostro paese. Però una piccolissima annotazione: io diffido del benaltrismo, come lo chiamo io, cioè ogni volta che nel nostro paese, nella scuola in particolare, si prova a fare qualche cosa, c'è sempre qualcuno che dice ben altro c'è da fare prima di risultato l'immobilismo. Questa è la migliore risposta a Pantaleo che ci sta ascoltando. Siccome non ci sono i criteri di valutazione ancora definiti, non si può, si boccia già lì. Facciamoli questi criteri di valutazione, no? Io dico, Rusconi, lei è d'accordo? Facciamoli. Ecco, quello che diceva prima il professore, ma anche qualche ascoltatore che ha telefonato, è verissimo, io lo vedo, faccio il preside da 26 anni, ho degli insegnanti non eccellenti, super eccellenti, se si potesse dire, altri invece che andrebbero allontanati e probabilmente riciclati in qualche altro settore, mi scusi il verbo un po' brutto, va bene, ma io devo pensare, la comunità mi paga non per star bene, per far star bene gli insegnanti, me stesso, eccetera, ma per fare in modo di avere degli studenti ben preparati che competano con i loro coetanei europei, soprattutto in ambito scientifico. Come si fa a dire che dobbiamo fare altre cose prima di? In tutta Europa è stato rilevato che ci sono sistemi di valutazione, gli unici due paesi che non hanno questi sistemi sono l'Italia e la Grecia. Io ho insegnato in master all'università a insegnanti greci, la Grecia e l'Italia, puta caso, stanno in fondo alla alle graduatorie dell'Ocse per quanto riguarda le competenze dei nostri studenti di 15 anni. Vorrà dire qualche cosa circa la congruità, preside, insegnanti, consiglio d'istituto? Questo ci si potrà accordare, è solamente una fase sperimentale, ma non buttiamo l'acqua sporca con il bambino, l'abbiamo già fatto all'epoca di Berlinguer, non ce lo possiamo più permettere. Vediamo, Pantaleo, lei è un benaltrista? Dice... Allora, intanto c'è una grande confusione secondo me, perché in realtà bisogna affrontare queste questioni in maniera molto concreta. In Europa non è vero che funziona esattamente come i progetti sperimentali che sta mettendo in campo la ministra Gelmini, perché intanto da 30 anni c'è una certificazione delle competenze che in Italia ancora non c'è, quindi c'è da costruire un sistema di valutazione. I progetti sono due. Ma se, c'è da costruire il problema di valutazione, ma se non lo vuole... Ci si dimentica che i progetti sono due. Ma sì, ce n'è uno anche per le scuole. No, che no, è importante rispetto a... Ho capito, oggi secondo, noi parliamo... Secondo me, così come è fatto, la mia opinione è che avrà seri problemi se non è collegato esattamente ad un sistema di valutazione generale. Sì, il secondo spieghiamo. Allora, premiare le scuole migliori con 70.000 euro. Vabbè, ma qua stiamo parlando... No, non è 70.000 euro, 70.000 euro arrivano dopo. Stiamo parlando degli insegnanti adesso. Di costruire un sistema sperimentale in cui c'è una valutazione di quella scuola sulla base ovviamente di una serie di parametri, e sulla base di questo si tende a premiare in funzione di un miglioramento dell'offerta formativa. Ho capito. La premialità degli insegnanti è collegata ad un sistema generale di valutazione come avviene in tutta Europa, o è scisso da questo problema? Perché io credo che su questo c'è una grande confusione. Il fatto che ad esempio le sperimentazioni avvengono in maniera differente in due province sulla valutazione individuale dei docenti e in altre due province sulla valutazione dei sistemi, secondo me è un'incongruenza. Però Pantaleo, adesso lei mi deve rispondere con un sì o con un no. Nel suo mondo ideale della scuola, che non è evidentemente l'Italia perché ha mille problemi, l'insegnante più bravo con i criteri di valutazione che decide lei deve guadagnare di più o no? Sì, ma una condizione che al resto degli insegnanti gli assicura la sopravvivenza. Vabbè, ma certo, chi... i contratti per 3 anni, le retribuzioni per 3 anni, come si fa a discutere di premialità in una situazione in cui affamano i docenti e tagliano 140.000 docenti e buttano sulla strada? Insomma, ma di che cosa parliamo? Non è contento neanche che hanno appena dato le anzianità di servizio per il triennio? Le ricordo che un docente italiano, a differenza della media Ox, guadagna sui 1.400-1.500 euro. Questo è un problema sicuramente. Più meritevoli, però no, sicuramente dare una sopravvivenza, sì. Ma certo, la sopravvivenza a tutti, non è che si dà dei soldi a uno per buttare a mare agli altri, almeno questo nel principio. Vi ringrazio. Con Mimmo Pantaleo, CGL Scuola, il professor Stefano Zecchi e il prese Mario Rusconi, vi saluto, con Antonella Migliaccio in redazione e Peter Bescapè in regia. Insomma, all'inizio settimana scoppiettante, bene così. Oscar Giannino a terra linea, noi ci troviamo domattina alle 7:20.